sfida, perché doveva essere così, una gestione molto tranquilla. Si è svegliato il giorno dopo, ovviamente, con un incubo totalmente inaspettato. È una dichiarazione quella del rappresentante dell'OSCE che non condividiamo, deve essere mala informata o non ha studiato bene il testo. Noi preserviamo la privacy dei cittadini, la riservatezza dei cittadini, che è un grande valore tutelato dall'articolo 15 della nostra Costituzione. Avete sentito le parole del ministro della giustizia Angelino Alfano, di passaggio a New York, parole chiare direi, che non hanno bisogno di molti commenti. È stato un incontro piuttosto vivace, movimentato, quello che il ministro ha avuto durante una colazione del GEI, il gruppo esponenti italiani qui a New York. E devo dire, ho visto un personaggio che non avevo ancora incontrato, alquanto deciso, determinato, soprattutto, come avete sentito, nel ributtare la palla nel campo dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Lo ricordiamo, l'OSCE aveva attaccato il progetto di legge che include le misure sulle intercettazioni, e il ministro è ripartito al contrattacco dicendo: bene, allora che l'OSCE ci dia un documento in cui si fa un confronto comparato fra il nostro progetto e quello degli altri paesi. Tutti si renderanno conto che la nostra situazione non è poi così diversa da quella degli altri. Ecco, ci sono però dei problemi di fondo. Come mai, ad esempio, nel nostro paese non si riesce ad impedire che la magistratura la smetta di distribuire così liberamente la documentazione ai giornalisti? Devo dire, qua in America non succede. I magistrati sono ligi al loro dovere e ovviamente rispettano la legge che definisce illegale la divulgazione di documenti di inchiesta di questo genere. Ho chiesto proprio al ministro come mai il suo ministero non riesce a far sì che questa prassi cessi. E la risposta del ministro è stata un po' evasiva. Dice: beh, non dipende dal ministero, dipende dalla stessa magistratura, e alla fine se un magistrato fa un'inchiesta sul magistrato si proteggono fra di loro. Non sono così sicuro di questo. Il Dipartimento per la Giustizia negli Stati Uniti può costituire delle commissioni di inchiesta ad hoc, lo stesso può fare il Ministero per la Giustizia italiano, e dunque sarebbe forse meglio andare a colpire il male alla radice piuttosto che prendersela con i giornalisti, che alla fine fanno il loro mestiere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Voglio dedicarla a Dalice Tan Ridley. Perché? Beh, perché ha cantato per 20 anni di fila nella metropolitana di New York, e in realtà è la madre dell'attrice rivelazione di Precious Garbury Sideby, e in qualche modo, grazie alla figlia, ha acquisito un minimo di notorietà ed è riuscita con straordinario successo a presentarsi allo spettacolo televisivo Got Talent. Dunque, dopo 20 anni, ecco emergere la Alan Tan Ridley con una canzone straordinaria, At Last, finalmente. And da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.